Avanti amico. Se per lei dobbiamo tornare la del... Hola, c'è qualcuno all'ascolto sul 10? Chi è avanti? Noi, a Natalino. Ciao Riccardi, buongiorno. Buongiorno. Che combini? Ari, oggi come ti senti, meglio? Adesso avevi dei disturbi nella modulazione. Meglio? Prova a fare un passaggio più lungo. 1, 2, 3, prova 1, 2, 3, prova radio. Vediamo se adesso va meglio. Sì. Adesso va meglio. Capito, perché ero in banda laterale e ho dovuto alzare il car. Come ti senti oggi? Stai meglio? No, non mi sento bene, no, Riccardi. Non mi sento bene, perché mi fa male la schiena e il ginocchio. Cambiamento del tempo. Evidentemente, solo sono dolori. Infatti sto un po' camminando, un po' seduto, un po' coricato, non so neanche io come stare. Movimento, però se poi ti fa bene andare a camminare. Sì, è che mi tira il nervo della gamba se cammino, capito? Devo avere proprio l'ernia del disco, come dice un amico mio, che è così lo stesso. Non c'è problema. Probabile il mal di schiena. E quello è, allora. E dipende tutto da quello. E beh, tutto a posto è adesso, Riccardo. Cosa? Non ti ho capito, Natalì. C'era tutto a posto, ho detto. Ieri messo tutto a posto avete con Roberto. Tutto a posto, adesso va bene. Oh, c'è un po' di propagation. E dove? Ma senti, io sento la propagazione sotto, si sente anche forte, c'erano gli spagnoli, i francesi prima, ce ne saranno anche adesso. Io sento solo QRM e basta, evidentemente perché c'è l'antenna troppo bassa, se non è bella alta la propagazione non li sento. Infatti bisogna alzare l'antenna. Sì, la parola è alzarla qua. Ti serve anche una mano? Sì, anche. Dimmi che ti stanno chiamando. Lasciamoli perdere che mi chiamano 24 ore su 24, poi quando dico chi è non mi rispondono mai. Chi è che mi chiama? Tanto non mi risponderanno. Ciao Eugenio, ben ascoltato, mica ti ho mandato un messaggio. Buongiorno, ci sono io e Zio Natale, non penso che lo ascolti, oppure sì. Zio Natale, avanti. Ciao Eugenio, mi ascolti? Attenzione, canale 10. Buongiorno, Bassino, ti ascolto però Eugenio. Da tutta Spagna, Romeo VI, che modula, capo. Su di Spagna c'è la sovramodulato, Riccardi. Vale, su di Spagna, scusa, Alfa 21? Alfa 21? Io penso, sto escuchando, amica. Stai voi ascoltando molto forte, Molto forte qui per la Spagna, amica. Ok, vale, buenos días. Io sono un maschio. Buenos días. Compañero, escucha, el amigo Eugenio. Ma io, cosa c'è Eugenio? bravissimo, arrivi forte. Mi stai attento a non infastarti. Oggi è di maestrale, no, non è buono. Quello grecale è levante. Ciao Eugenio, avanti Natale per Eugenio che sta andando via. Ciao Eugenio, alle prossime. Ciao, fatti sentire, mi che quando finisci dal furgone leggi il messaggio. C'è ancora il Sur Spagna? Sì, li ascolti in spagnolo, ho l'antenna troppo bassa. A me sta dicendo Ricca. Adesso che sto dicendo a te? Adesso non sto ascoltando niente, poco fa ho ascoltato a quello lì che arrivava a bomba blu. Infatti, si può provare a fare una chiamata, se no non si ascoltano, perché c'è un bel di propagazione oggi. Mi chiama? Ali. Oh. È da giorni che alcuni mi chiamano per nome e poi quando gli dico avanti non rispondono. E lasciali cantare. Lasciamoli cantare. Vabbè. I tegherese. Vedi, non rispondono manco a me. Ti ho sentito. Tu fregatene, no tocchese e fregatene. Mia figlia sarebbe. Il problema li lasciamo cantare finché non rispondono. E lasciali cantare che hanno bella voce. Una voce bianca. Non si è fatto sentire neanche Luca oggi, boh. Deve essere che non c'è. Boh, si farà sentire più tardi. Già ci sono, ma sto qua, sto facendo roba, tali. Scusa. Io devo fare sempre qualcosa, altrimenti sono un uomo morto. Lavora tranquillo, siamo qui, vero Natale? Ciao comunque Luca. Ciao Riccardi, anche a te. Ciao anche a Natalino, chi c'è Natale in poi? Tu e lui. E allora, io e Riccardino e tu. Beh, io Pucchi Natalì, buongiorno. Franco, tu sì? Cappa. Ciao, ben ascoltato. Ciao anche a Riccardo, ben ascoltato anche a lui, se mi ascolta. Avanti Riccardo. Ciao Franco, ben ascoltato. Avanti Luca, se ci sei ancora. Mia, ciao anche a Franco, se mi ascolta. Buongiorno anche a te. Cappa che ti ascolto Luca, ben ascoltato anche a te. Sempre al lavoro Luca. Ehi, mi riparano un altro tablet, dai, non altro adesso. Uno l'ho già consegnato. Cappa. L'importante è andare, l'importante è che ce ne sia sempre. Ma guadagno è poco, quasi niente. Vabbè, giovane, giovane. È un bel casotto. Avanti, Natali. Infatti, meglio che su che nuzza. Già non credo di Natali, meglio che su che nuzza è proprio. Riccardo. Dimmi, cosa c'è Franco? Cosa? Che? Stai parlando, aspetta tanto, non si capisce niente. Scusami, adesso sto andando meglio? Cappa, adesso sì. Le parole quando li inizi col microfono schiacciato le devi finire, perché se no, se muri prima non si capisce niente. Fra, come hai detto un attimo in bianco per me, arrivo subito. Ok, va bene. E bene, Natale, tutto a posto, sì. Tutto a posto, da mettere a posto. Quando ti chiedi? Mio, devo avere l'ernia del disco, Fra. Perché me l'ha detto un amico mio che è come me, uguale. E dice che lui ha fatto la risonanza e gli hanno trovato l'ernia del disco. E sicuramente la giubbo io. A chi la salia gi fuzza duranca, come ti mira di rendi e mi fa di mari burrachina. Cappa, può essere, e io vi raggio anni, vi raggio. A me addirittura, quando mi venne lo dolore della china, mi si fa dire anche a burro tutta formichio, dal bacino sino giù dopo il ginocchio. Come ti siano con me, dimmi. È un casino. Vabbè, io ho lavorato anni e anni e anni sul carrello elevatore, magari è per quello. E può darsi, boh. stata questa, che io quando cammino faccio un po' di metri, mi viene questo dolore al polpaccio come che mi tira un nervo, ma duro, riga, che non puoi resistere. Lo so. Li ho passati un bel punto laggiù passati che c'è dolore. Beh, dillo a Marco, dillo. Marco gli sarà che cosa? Mi posso immaginare. Anche di notte. Adesso vado dal medico e mi faccio vedere e vediamo un po' cosa mi urtiene, a chi è il possibile capisci. Sì, ti conviene andarci oppure telefonargli e dirgli cosa posso prendere. Trova lui, sono delle pastiglie che fanno anche bene, o se no ti va a fare iniezioni, ti va a fare la mano di Dio, insomma. Sì, forse le iniezioni sono meglio. Io facevo sempre iniezioni, pastiglie non ne ho voluto mai, che preferivo quelle là perché erano più efficaci, il dolore se lo passava più in fretta. E prima entrano in circolo compreso. Infatti è così. Tu e Riccardino solo e Luca. Allora, non c'è più nessuno in questa frequenza, io dico se mi darà di rodduzzo. Io ero senza alimentatore, un colpo di corrente me le ha tutte sfasate, e avevo paura di usarli perché sennò mi bruciavano la radio. Adesso me ne ho comprato un altro nuovo e sto usando un nuovo. Secca. Io ci ho Andelli, Durrelli, Busard, Bucard, non so come anche io metti sa. Ti capisco Natali. Non sei a parte di rapi. Lo so. E dolori, sono dolori, per carità, ragazzi. Oh vabbè, chi si? Una persona ha detto che le dolori sono come te di là, allasci di tenermi. Avvirumi, specialmente di là. Capo Natali. Va bene, dai, stavo facendo una cosettina qua. Sono entrato solo per vedere se stavo andando bene questa cosa. Già è così alla grande, possibilmente. Va bene, dai, ci sentiamo Natali che sto facendo cosa qua a casa. E fai, buon proseguimento, dai. Ciao Fra, piacere di averti sentito, alle prossime. Riccardino non è tornato ancora, già glielo dico io che hai fatto QRT. Ciao Franco, sì che sono qui, mi sono allontanato un attimo e sono arrivato adesso. Ciao, ma dai, ti avrei salutato lo stesso. Ciao Riccardo, buona proseguo, poi se secondo di te poi ce la rientro. Ciao, riprendi Riccardo. Ciao anche a Luca. Ehi, ciao Franco, come ho detto, sono piacere di averti ascoltato e vado avanti per Luca se c'è ancora. Ciao Fra, sto facendo una roba qua, dai, riprendete voi. Riccardo. Va bene, preparano le parlare. Adesso mi assento un po' che devo fare qualcosa anch'io qua. Ci sentiamo alle prossime, dai. Magari più tardi. Dopo Natale. Ciao Riccardo, saluti a tutti. Ok, grazie. Ma c'è rimasto tranne Luca? Noi sono rimasti. Oh ciao Manuel, mi stavo allontanando che devo fare cosa qua, e cosa mi sono passati? Se ti sto dicendo che ieri anche il ginocchio mi faceva male, mi ho preso un occhio, ma il piede mi sa da righeggia di poco poco. Eia. Manuel, comunque, non so se ci sentiamo tutti, vado un attimo dentro a fare pausa. Fai. Tu siamo a Disney, ma sulla rite, ma da sole, sono tutto bacalizzato. Ma io deve essere che ho l'ernia del disco, tutti questi dolori, l'ernia è che te li fa venire. sicuramente avrò fatto uno sforzo, non me ne sono accorto e purtroppo quasi così 9 non eseguo più. E dimmi Manuel. Micro Reum. Non si capisce, arrivi troppo basso. Luca, guarda, beh, tu più bene lo senti a Manuele. No, Luca del Monte. Perché non si capisce il nome della medicina, amico. E Luca deve seguire Novè, che si è allontanato anche a lui. E vabbè, me lo dici un altro momento, dai. Tanto vado a pigliare due succhi, non posso pigliare. Lo so che è infiammato. È il bello che non mi fanno niente, neanche gli antidolorifici e né gli antinfiammatori, perché io prendo la cardiaspirina, capitolare, e quella roba lì non mi fa effetto, è come che non ne prendo. E bisogna andare al dottore e basta, perché io prendo la cardiaspirina, aspetta un attimo che hanno suonato. Manuele, mi devo allontanare, ci sentiamo alle prossime, dai. Dillo a Luca se entra o a Riccardino che me lo dicono quella medicina, dai. Mandatelo, mandamelo tramite WhatsApp, dai, che dopo lo leggo. Aspetta un attimo, mi rusegno. Dimmi, vai. Allora, 328 92 43. Ok. Attenzione canale 10, chi c'è rimasto? Brecco. Scusa, alfa 21? Canale 10, non c'è più nessuno, lo so che si è carico di porco. Attenzione canale 10, 27.075. Non sono italiana, sono italiano! Sono italiano! Che terribile! Perché sei italiana, tu sei italiana, sei italiano. Ma mi confondo per una femmina. No. Voce bianca, quando diventerai grande ce l'hai mascola come la mia. Io ma almeno viene sempre una femmina, mamma mia. E allora? Va. Sì, aspetta un attimo, se non ti rispondo vuol dire che sto facendo roba. Scusa. Attenzione sul canale 10, Brecco. Interessante. Parlami di questo orometro. Girando, parlando con te e nell'orpus. E a un certo punto vedo un frequentimetro tipo in una scatola. E volevo, l'ho preso e ho visto un rosmetto Intex. Guarda, sto troppo ridendo che trovi il rosmetro anche nell'orto. Cioè, dai, sto troppo ridendo. Quanta roba avete? Faccio babbo. Che fuori, così no? No, niente, stavo camminando all'orto e ho trovato una zucchina, ho trovato, hai visto? È uscita una pianta, no, stavo girando all'orto, ho trovato un rosmetto, è normale. Ti mando la foto adesso. Ehi, a capo, sono più curioso, ma secondo te la stagianiera lì? Sappiamo che anche noi. Di babbo, 30 anni fa si era dimenticato all'orto. Magari funziona pure. Stai attento, non mandare in trasmissione, che magari dentro c'è roba. Sarà meglio aprirlo prima e guardare se tutto è a posto. Lo sta aprendo, babbo. Ma babbo l'ha riconosciuto. L'ha riconosciuto. Se l'ha ricordato che ce l'ha detto almeno. Mi viene saluto così nell'orto, mi ha stava passeggiando pure lui e 30 anni dopo se l'è ritrovato. Devo venire a aiutarti a fare pulizia nell'orto, sai che magari è notte, baracchini, deve essere un orto magico. C'è dal detector, ma sai cosa ho trovato anche? La mia vecchia mini Grand Plane. Nell'orto? Sì. Cosa pensa, è un po' scura, no? Fanno la bocca, sentiamo come esci. Certo, l'ho trovata nell'orto, vediamo se sta andando bene. Sto curando per cosa, stanno abbassando un poco, sta andando bene. passando appena, come va adesso? 1, 2, 3, prova. Molto più chiaro, c'è il rumore sotto, ma sei altri apparati accesi, ti stai ascoltando? Non ho altro acceso. E allora deve essere un rumore che prende il microfono da lontano, tu magari lo senti basso basso, però il microfono lo tira fuori. E ce l'ho anch'io. Perché sto innescando? Mamma mia. Ma vogliamo smettere? Niente, continuo a innescare. Perché sto innescando? Così vado meglio di capire. Sta andando bene. Come ho detto, ho trovato anche la mini Grand Plane. Bene, bene, quella te la metti in camera. Visto. È l'automatico. Così, no? Tu stai camminando e inciampi su un'antenna. Capito. Se voleva piantarlo, a vedere se ne uscivano altri. E infatti, magari ne sono piaciuti altri, lì. C'è da girarti bene quell'orto. Ma babbo, l'ha aperto? Lo sto aprendo. Molto rugginoso, eh? Abbastanza. Dai, dai, sarà sicuramente un bel apparato. Perché se è vecchio, sarà sicuramente fatto bene. Se è dentro è pulito, non è stato rugginito, eccetera, si può anche provare. Guardalo, che già è arrivata la foto. Ah, Che bellino! Anch'io ne ho uno vecchio così, tutto arrugginito. Non è Intec, però, è Falco. Allora, è il tuo simile, solo che il mio c'è il pomellino, invece questo qua è il controllo della temperatura del coso, del limite per le stazionali, e ce l'ha a casellino, insieme alla foto del mio, anche lui bella rugginita. Ti sto mandando la foto di com'è dentro. Gaffa, ti faccio la foto a questo. Fabio, l'hai vista la foto? Ah, te l'ha messo molto bene, secondo me funziona. Probabilmente. Ma non che proprio mi abbia sciolto qualche apparecchio, però per vederlo così funziona. Ce l'avete uno spray per contatti? Ce l'abbiamo. Perfetto, ci vuole un po' di spray, fare la porta fra già, sia sull'ingresso che sull'uscita dei TL, per fare in modo che faccia un bel contatto. Poi sono dei trimmer che non andrebbero toccati, anzi andrebbero segnati con un pennarello, messo lo spray, mossi un po' avanti e un po' indietro e rimessi esattamente come sono. E poi ci vorrà sicuramente un po' di spray anche su quel carrellino per la regolazione dello strumentino per le stazionarie. Secondo me questa cosa, se non è fatta per altri motivi, può andare. È messo bene dentro. Speriamo che vada bene, cioè, ma come si fa a trovare attrezzatura per la Citizen Band nell'orto? Vabbè, tu pensa che da video se prendono carote e patate prendono anche televisori. Siamo andati il mio, questo funziona, eh? Vabbè, però almeno ci credo che funziona, il tuo non penso che sia stato in un orto per 30 anni. Allora, questo qua è rimasto sul tetto. L'ho trovato sul tetto. Sul tetto a Russia. Non lo so, penso che l'avevo lasciato, credo, per 15 anni sul tetto. Infatti vedi come è riuscito un po' arrugginito. Non è un punto in cui prendeva acqua, però poi oggi è vicino al mare, perciò c'è tutto ossidato. E niente, l'ho pulito, gli ho dato un po' di spray, non ho voluto riverniciarlo, l'ho fatto così com'era ed è uscito, cioè funziona bene. Non è precisissimo, perché non è un apparecchio per essere preciso, neanche quello che neanche il tuo dell'orto sarà precisissimo, perché i rosmetri e i battimetri precisi sono altri, non sono questi, diciamo, mezzo giocattolo, però lo puoi utilizzare, puoi avere un'idea di come stai uscendo, le stazionate, insomma, più o meno funziona, eh. Siamo curiosi, lo proviamo. Comunque anche noi abbiamo un rosmetro, è tipo quello della Intec, però è sempre Falcos. Sì, poi alla fine magari un'azienda faceva un prodotto e lo vendeva ad altre aziende e gli mettevano il nome che volevano, capito? Ci sono molte cose, Intec, Midland, anche di altre marche, marchettine così, tipo il 3006 e il 3009. Lo trovi timbrato in tante maniere diverse, lo trovi Connex, lo trovi Superstar, poi alla fine l'apparecchio dentro è lo stesso, è uguale, solo che hanno messo un timbro diverso, l'hanno commercializzato attraverso altri canali o per altri stati, capito? È più una politica commerciale che una politica costruttiva. Però ricordi, provatelo con un baracchino, con un cavolo di baracchino, mi raccomando. Certo, secondo te lo provo con il trio, con lo Yaesu, ma tu su Marco. Sì, infatti, no, per me te la voglia di provarlo subito, cioè se fa acceso, insomma, magari ti fida. E già non esciamo, babbo. E al massimo per il K uso il TM1000, che è anche sempre un giocattolino. Ma va bene, c'è un'idea. Non è che devi fare chissà quali cose, una volta che sappiamo come stai uscendo, tante nell'ordine, non ti lascio di nulla. Però che non ti metti veramente a fare certe cose particolari, però per queste frequenze uno strumentino anche meno giocattolo va bene, ti arrivi come sei, non ti... Certo che se c'è qualcosa di grosso te ne accorgi comunque, se c'è qualcosa un po' così, un po' cosà, ci vuole un altro strumento. Fammi, ma ti deve chiedere un consiglio tecnico. Ciao Fabio, scusami se mi interrompo. Ma che, è un piacere Sergio. Chiedere, stiamo cercando di far funzionare sulla cellula camper questo impianto satellitare, questa parabola satellitare, però ho accoppiato una TV che ha solo la presa SCART e secondo te volevo sapere se potevo fare l'accoppiamento tra questo nuovo, non so se lui ha una specie di centralina che controlla la posizione e l'apertura e la chiusura della parabola, però non sono riuscito a trovare il cavo che raccorda la presa SCART, perché c'è soltanto presa SCART in questa vecchia TV a 12 volt per camper. Ricapiamo, lo stavo accennando. Ascolta, ancora prima di vederla magari, perché magari ci mettiamo anche il naso, lo vediamo insieme. Fai pure foto, che si vedono anche le targhette, i modelli, il modello, eccetera, degli spinotti, insomma le foto che riesci a fare, 5, 16 foto. Così inizio già a avere un'idea. Comunque sì, è possibile da un segnale VGA entrare in SCART. Non è la prima volta che lo si fa, così come è possibile il contrario. Però vediamo un attimo dei parametri e a posto magari di metterci noi a saldare, a fare, a tirare e mollare. Ci sono dei convertitori, degli adattatori che costano, come diceva Riccardino l'altro giorno, anche solo 9-10 euro spediti. Sono già fatti, sono così ordinati, schermati, capito? Magari mi conviene, anche perché in campo le vibrazioni eccetera, ogni volta che si costruisce qualcosa bisogna stare proprio attenti. E allora io la TV allora gliel'ho collegata giusto per vedere i DVD, però volevo magari collegare anche questa parabola perché è un impianto che avevano installato su questa cellula ed è, mi sembra anche un impianto costoso, però non farlo funzionare poi mi sembra anche una stupidata. E quindi volevo magari che tu mi davi qualche consiglio sulla soluzione migliore, con un cavetto, con qualcosa che potesse raccordarmi a questo impianto per utilizzare, per vedere anche un telegiornale, insomma qualcosa, qualche programma. Sì, K, la fase positiva di abbassare un po' la pubblicazione perché stai cercando, intanto per me, ma per il baracchino. Sì, ti ripeto, fammi del foto, così abbiamo un po' idea. Quanti anni pensi che abbia questo impiantino? Credo che sia recente. Credo che sia recente perché l'aveva fatta installare. Questo si chiama ASR, credo sia il 680 Plus della Mechatronic. ASR 680. Ok, l'ho segnato. Adesso faccio un po' di ricerca per capire com'è, però tu mandami le foto lo stesso, così le capiamo un po' di più. Vediamo se ha un'uscita composita che possiamo buttare in scatto, magari anche se non è RGB va bene pure la composita, tanto per avere l'immagine, no? Adesso ti mando anche qualche foto più dettagliata, così vedi come si può raccordare con una presa al gruppo che comanda la parabola, al televisore, oppure se occorre anche un TV sat, mi pare che si possa applicare come decoder. Allora, così al volo, se si riesce a fare il puntamento automatico, e dopodiché abbiamo un'uscita del convertitore dell'NT, possiamo entrare su un TV sat, per esempio un iCan. Non comprarlo perché un CD, uno con il quale parliamo solitamente, dico anche il nome, è Natalino, l'ha usato proprio qualche giorno fa, però non può usarlo perché non può puntare la parabola su quel suo cliente. Dunque ce la fermo, l'ha pagato anche abbastanza, magari al posto di comprarlo proprio nuovo dal negozio lo puoi anche prendere da lui, così lui si recupera un soldino e tu spendi di meno. C'era sigillato e la sera non l'ha attivata, praticamente non ha mai visto neanche un'immagine già da due giorni. E sarebbe l'impianto ideale, perché con il TV sat iCan, a parte il fatto che è un'immagine spettacolare, perché gli utili che hanno fatto tutto quello si vedono e si sentono veramente bene, hai tutti i canali tranne quelli locali, tipo telegiro, fare il genere, però apri tutto, trovi tutto in chiaro, una volta che la scheda è attivata, la scheda è compresa nel decoder, perciò ha già quel prezzo lì. Mi sembra che siano tipo 150 euro, compresa la scheda e compresa anche la tantum per l'abbonamento, che è eterno, lo paghi solo una volta e non devi pagare ogni anno. E ti apri tutti i canali in chiaro e tutto quello che vedi, digitale terrestre, te lo apre. Capito. Ascolta, considera che questa parabola praticamente dovrebbe essere già impostata, perché gli manca il, io non l'ho trovato questo, ha una specie di specchietto dove puoi programmare il puntamento dei satelliti, ma è già programmata sul satellite classico, per cui quando si apre da chiusa, si apre e va già a cercare il satellite, che penso che sia Astra o quale, quelli più comuni insomma. A noi interessa Hotfield, è a 13 gradi a sud rispetto allo zero puro, che è proprio il polo sud preciso. Praticamente dovrebbe accendersi e girare, puntarsi a sud e tornare indietro di 13 gradi. Poi non sappiamo adesso, perché non ho guardato il modello, non ho capito bene esattamente quale sistema è, se è con controllo GPS o con controllo del satellite, oppure direttamente ha un sistemino polarizzato e tipo una bussola, per intenderci, e dunque lo fa in maniera autonoma senza segnali esterni, capito? Infatti ho visto che quando si accende, si apre, si punta lì a sud e poi si sposta leggermente, come dicevi tu. Quindi sicuramente deve essere Hotbird quel satellite lì. Credo che sia forse preimpostato quel gruppo di comando, adesso non mi ricordo come si chiama. Vabbè, quello dove poi arrivano tutti i cavi. Il puntatore, vabbè, la centralina, puoi chiamarlo come preferisci. Tu hai visto se c'è un'uscita tipo con un connettore per intenderci, quelli è l'antenna della parabola, hai visto se lui ha una presa di servizio? E da questo diciamo piccolo, come si può chiamare, pannello di controllo, praticamente ha questa uscita di quelle classiche per la TV. Uno spinottino tipo spinotto dell'antenna normale. Esatto, c'è uno di quelli in ingresso e poi un altro, perché c'è scritto out per l'uscita, che sicuramente sarà quello da applicare al decoder. Noi ci colleghiamo lì con uno spinottino e con lo strumento e vediamo che uscita dà. Se si dà l'uscita dell'illuminatore direttamente su quello spinottino lì, non dobbiamo neanche toccare niente, perché comunque sia il decoder TV sat ha un'uscita anche composita, perciò lo puoi adattare sia a un televisore che ha l'uscita HDMI che a uno che ha una scarpa, capito? Adesso praticamente ti sei già fatto, molto probabilmente non dobbiamo toccare nulla. Se poi tu mi dici che hai visto che lui si punta a sud e poi si sposta un po' a sinistra, è fatto, funziona tutto, dobbiamo solo metterci un decoder. Ecco, io non capivo quello, ci voleva il decoder, perché praticamente ero convinto che il decoder di quel televisore che io ho applicato, che è un televisore che avevo comprato per camper, bastava quello, invece no, ci vuole un decoder apposito per poterlo guardare o no? Assolutamente così, non ce l'hanno incorporato il decoder. Oddio, ci sono delle parabole che hanno anche il decoder incorporato, sono delle parabole particolari, le usano soprattutto nelle barche che hanno appuntamenti automatici, riescono a rimanere puntate anche se c'è un beccheggio, oscillazioni, capito? Ci sono cose insomma molto complicate, ma molto costose. Io ho un amico ad Olbia che campa solo di questo, cioè durante l'estate è sempre lì in assistenza, ogni tanto prende un gomone, va a finire su qualche yacht, resetta queste parabole, gli mette due parametri e se ne esce con 10.000 euro di conto. Ogni volta che esce lui si porta a casa con 5-10.000 euro, figurati, solo per impostare due puntamenti. E quelle parabole molte hanno anche i sintonizzatori incorporati, perciò esce direttamente un cavo HDMI e va sul monitor, televisore, chiamalo come vuoi, però non penso che sia il caso della tua, che comunque non è che la compri per 100 euro, intendiamoci. No, ma questo ti sto dicendo che questo è un impianto che credo che costi 1.800 euro, c'è infatti l'uscita quella HDMI, non so come si chiama, ed è un impianto molto costoso che lui gli ha fatto applicare. Ciao, allora mi sa che devo portare anche un piccolo monitor per vedere cosa c'è in quell'uscita. Comunque la cosa da fare è questa, arrivare con lo strumento e vedere un attimino l'uscita, se c'è lì, se vogliamo assistere. Poi, anche se lui dovesse avere un sinto incorporato, tu di quel sinto poco ti fai, perché tutti i canali sono criptati. L'unico modo per vedere i canali è avere il sicurezza. Perciò, che abbia il sinto, o che non ce l'abbia, o che funzioni, o che non funzioni, o che abbia un'uscita, o che ne abbia un'altra, a noi interessa l'uscita della parabola, cioè l'uscita dell'illuminatore e del convertitore. Una volta che prendiamo quello lo buttiamo sul TV Start, tu praticamente puoi usare il televisore che vuoi e vedi tutti i canali. Ho capito. Ma quindi il decoder poi va, anche lui va alimentato, sbaglio? E la cosa bella è che hanno tutti alimentato da 12 volt, perciò basta fare uno spinotto. Io quando lo metto nel camper faccio di solito un pannellino, magari ti mando anche due foto del mio o di qualche lavoro che ho fatto, mi faccio sempre un pannellino dove posso vedere la carica delle batterie e l'uscita anche delle alimentazioni, per dire per staccare l'autoradio, per staccare il televisore, per staccare il decoder. Però si può anche fare, tra virgolette, che può essere molto complicato, basta che abbia un tasto, perché il decoder, anche quando è in stand-by, ti ciuccia la batteria e puoi avere i pannelli che vuoi, puoi avere le batterie che vuoi. Lo sai che bisogna fare un po' di economia di batterie in camper, no? Cioè, le cose che ci attacchi meno consumano, meglio è, e avere questo sempre in stand-by non è una cosa carina. Sì, infatti. No, ma adesso mi chiedevo, ecco da dove, ecco quello spinotto che esce, che ho misurato i 12 volt, quindi da questa centralina quello spinotto lì va al decoder. Probabilmente sì, vado a vedere, non l'ho ancora guardata. Niente, adesso me la frugo, cerco di capire esattamente com'è fatta e poi se mai ci vediamo 10 minuti, attacchiamo lo strumentino mio per le parabole e vediamo un attimino cosa esce. Infatti ho mandato anche a Ricky a fare le foto a questa centralina della parabola, così capisci un pochettino di che cosa si tratta. Ma sicuramente quando io ho comprato la cellula, perché il vecchio proprietario che sono riuscito a contattare mi aveva già avvisato che aveva tutto in dotazione, ma quelli della concessionaria hanno fatto i furbi e mi hanno fregato la batteria di servizio che aveva appena comprato, 200 euro che le aveva comprate tutte e due nuove al gel, e poi ha portato via anche quest'altro monitor e altre cose che riguardavano il decoder, sicuramente il monitor che riguardava l'impianto. Ho fatto guardando le foto dell'impianto, quindi sì, questo ce lo attacchiamo, lo fa collegato con il cable, quindi il 18, decoder 1, decoder 2. Allora, praticamente hai un illuminatore con due uscite. Sì, ma via di tutto noi prendiamo l'uscita del decoder se questa foto che sto vedendo dello schema è verificabile poi in trapanissi, perché a volte si mettono le dischiere che sono appena trapanissi magari superiori oppure che sono direttamente sbagliate. Ma qui è chiaro, ci vuole un decodere esterno, e tu hai la tipo che vuoi. E perfetto, per questo volevo capire se mi mancava qualcosa o era soltanto una questione di collegamenti da fare. Benissimo, e allora adesso ci procuriamo questo decoder e vediamo un po'. Sì, stavo bene. Ah, quanta centralina? Non c'entra in acqua? Ah, questo è il televisore. Questo è il televisore, è la SCART, gli ingressi RGB, vero qua, però sono audio e video, quello è. E poi c'è l'FVideo che è utilizzato, va bene. Sì, ma non c'è problema, perché con l'adattatore sul decoder dovremmo riuscire a cavarne piede, capito? Sì, no, io poi alla fine magari pensavo di dovermi arrangiare e di comprare un monitor con il decoder già incorporato, ma mi dici che questo non li fanno forse? Scappa, su un camper, su quello che ho qui a Sassari, ho un televisore che ha anche il decoder SAT incorporato e in teoria ci si può mettere una cam con dentro anche la TV SAT praticamente da andare a buttare su. Anche perché il giorno che devo cambiare il televisore, insomma, è tutto un pasticcio. Io preferisco sempre avere il decoder separato, da meno problemi, non si impalla, non hai problemi di temperatura della cam, perché a volte le cam scaldano, poi si programmano, poi devi resettarle, insomma. Il decoder iCan, scritto I-CAN, della TV-SAT, è la cosa più sicura che c'è. Una volta che lo piatti lì non dà mai problemi. Se proprio ti dà problemi, che vedi che non vedi niente, scendi nel menu, fai l'opzione di fabbrica, prendi ok, ti resetta, si sintonizza e in 3 minuti vedi la TV. Perfetto, dai, allora quella è la soluzione migliore, come mi stai dicendo, quindi facciamo così. Sì, sì, poi ci mettiamo d'accordo. Quando vuoi, quando riusciamo a coordinarci, ti ripeto, faccio un salto con lo strumento, prendiamo l'uscita del sistema, lo mettiamo nello strumento e vediamo come la sintonizza. Ci guardiamo anche io sul monitor se sta andando bene la parabola, tanto lo strumentino ti dice anche la percentuale di segnale, la qualità del segnale, capito? Tutte queste cose dire qua. Una volta che abbiamo trovato quello segnato lì che ci dà il segnale della parabola, ci colleghiamo il decoder TV-SAT e poi il TV-SAT lo colleghi al televisore. Se hai appena di mano, ma se vuoi non lo so, io sono abituato a fare questi lavori, si può fare anche una cosa dove non si vede un filo, capito? Non ci sono cavi in giro, non devi mettere spinotti, insomma quando uscire una cosa molto carina a vedersi, che tu semplicemente apri un'antina, c'è il telecomando in mano, tac, e ti guardi la TV, come faccio di solito. Perfetto, questa è proprio la soluzione a cui pensavo, solo che io non ho queste capacità e quindi non mi sono addentrato a fare un impianto del genere, perché poi rischiavo magari di fare qualche fesseria, perché queste cose già lo sai che vanno fatte senza avere ripensamenti, cioè bisogna avere molta esperienza e capire dove mettere le mani, che non è il mio caso qua. Sì, guarda, è apprezzabile che tu da comunque semi pratico in queste cose, perché tra barattini eccetera ho capito che un po' di esperienza ce l'hai, penso anche un po' di manualità, so che avete un andatore, che avete fatto il dipolo, perciò un pochino ti muovi. È apprezzabile che tu, nonostante abbia queste capacità, nonostante sia un camperista, non ti sia messo a fare l'ingegnere, perché di camper pasticciati ne ho visto troppi, ne ho visto. Cioè, se sei arrivato a un certo punto, stai facendo alcune cose e ti rendi conto che magari da quel punto in poi hai troppi studi interrogativi, magari è meglio che ti fermi. Invece sono persone che hanno fatto cose inimmaginabili, qualche foto forse ce l'ho anche. Infatti io evito di fare porcherie, perché poi io so che sono, a parte che sono brutta da vedersi, ma sono anche non sicure, cioè, dal punto di vista elettrico eccetera, perché basta un attimo per prendere fuoco tutto vedere dal di fuori il camper che brucia, e quindi evito di fare queste fesserie. Cioè, sono cosciente che fin dove posso arrivare arrivo, altrimenti mi fermo, cerco di essere onesto con me stesso e mi faccio consigliare, capito, come in questo caso, perché so che comunque tu hai delle capacità, ho capito parlando che comunque dimostri di avere padronanza della materia. Cerca un pochino, dai, da bambino quella passione ti guida, ho dedicato molto tempo a vita, ho fatto un po' di lavoro, niente lì, non è che si può vantare di qualche cosa, però insomma, qui a questi lavori ci arrivo abbastanza bene. Mettiamoci d'accordo nel momento in cui posso venire con lo strumentino, colleghiamo lo strumentino e vediamo che c'è tra la parabola. Poi ti ripeto, sarà una tarina di mattina per puntargli la parabola, però la metta in una posizione in cui c'è la parabola avanti, proprio dove l'ho buttata, questo non si può fare, e dunque lui si trova che ha speso per comprare questa roba e non ha avuto risultato. Dunque se ti vuoi risparmiare magari dentro un ventino, tanto c'è lì, si può, come mi piace fare tra l'altro, si può unire una cosa all'altra e siete contenti tutti e due. Dai, facciamo così e quindi diciamo, insomma, restiamo a tua disposizione, dai, tanto noi siamo qua a casa in campagna, quindi a meno che il fine settimana non si metta bene usciamo con la cellula, ma altrimenti siamo a tua disposizione. Quando sei libero, che è un attimino, poi sentiremo anche Natalino, vediamo un pochettino. Tanto, perfetto. Allora ci sentiamo magari pomeriggio e vediamo come siamo messi. E niente, dai, noi ci mettiamo d'accordo, tanto numero ce la veste, io ho quello di Riccardino, perciò nel caso a messaggi, no, anche per noi ci mettiamo d'accordo. Bene, dai, così avrai modo anche di vedere un piccolo ranch che ormai vive solo di gloria. Vive solo di gloria, un piccolo ranch dove camminando trovi un rose, metto un'antenna. Oh Sergio, ma che rose, da quanti anni era lì? Guarda, quello quando prendo e faccio pulizia, hai capito? Prendo e libero magari un angolino, mi sposto da un altro e quindi strada facendo qualcosa si perde, ma è normale, siamo abituati e mi sono sparite diverse cose, quindi probabile che trovi anche qualche tappa sepolta e qualche altro strumento, è normale, non mi meraviglio. Cioè, tuo figlio ha detto una cosa di fatto, no, cioè, ho trovato rose, no, non ci posso credere, nell'orto. Sì, siamo rimasti un po' a ridere di questa cosa, perché manco me lo ricordavo che esisteva, quindi sono cosciente che può essere successa anche una cosa che mi è accaduto mentre stavo trasferendo da una parte all'altra. Stiamo sempre sistemando, qua non si finisce mai, è una specie di condanna, è che è piacevole, però altrimenti diventa un lavoro infinito. Sì, a scappa, comunque è sempre bello, dai, avere terra, animali intorno, e diciamo, c'è un po' il sogno di tutti, come per evitare il camper, no? È un po' insito in ognuno. Io mi sento a volte che io sono dentro, magari parcheggiato, passa qualcuno a fianco e fa un camper, il sogno è una vita, compratelo, no? E anche noi che abbiamo il sogno di avere terra intorno, animali eccetera, alla fine, cioè, se ti impegni le cose reali, se ti rivalgono così a livello di pensiero, ti fai travolgere da altre cose, poi alla fine i tuoi veri sogni non riesci ad averli, capito? Tu hai avuto costanza, hai avuto determinazione, ti sei fatto l'ambiente che volevi, ed è una bella cosa. Ero cosciente sin da piccolo che mi dovevo per forza creare un mondo a parte, perché poi in certe cose non mi ci trovo, quindi non sono né una persona che sta al bar tutto il giorno, oppure che passa la maggior parte del tempo con gli amici a perdere tempo, non mi è mai piaciuto, quindi mi sono sempre buttato a capofitto nelle cose che mi interessavano, poi cose anche particolari, perché ho sempre fatto delle cose un po' pericolose e sono sempre stato attratto dal pericolo, dalle cose che mi spaventavano, quindi ho cercato di di andare anche sempre un po' controcorrente, però poi tutto sommato mi sono trovato bene, ho fatto esperienza, ho fatto anche degli errori dove ho visto la morte in faccia diverse volte, però è così che si cresce poi alla fine. Mi dispiace, ma mi dispiace per te, ma io non sono uno di quelli che invidia, capito? Perché chi vede certe cose, chi si mette in testa un pallino, chi riesce a acquistare l'automobile dei suoi sogni, chi riesce ad avere la casa che gli piace, eccetera, tanto per cambiare viene invidiato a manetta, capito? E chi fa quello quanto ha rubato, chissà che fortuna ha avuto, eccetera, chissà che cose lo ha fatto per avere queste cose, capito? Sempre così. Pensa un pochino come viene visto la gente che invece si impegna, è determinata, e d'altronde loro questi discorsi li fanno al bar, dove ci passano la maggior parte della vita. E soprattutto è importante, secondo me, nella vita anche scegliersi, a parte i momenti, ma scegliersi anche le persone giuste, perché se ti circondi di persone che poi hanno anche una negatività oppure un modo di fare che comunque non è positivo, poi ti contagiano, ti trascinano, per cui devi sempre frequentare persone che ti sappiano trasmettere qualcosa di buono, ti aiutano a crescere, a migliorarti, altrimenti diventi un fossile. Ce ne sono poche persone negative, purtroppo ogni tanto tocca lontanarne qualcuna, poi anche le persone cambiano, perciò ti ritrovi a dover decidere, capito? La vita non cambia, siamo dei compagni di viaggio, ed è bello quando si vive a fianco, si appoggia una persona positiva con la quale puoi costruire qualcosa, che a volte costruisci un pensiero, però è poi dal pensiero che parte tutto, non è che ti posso fare fondamenta per un grattacielo. Infatti sono d'accordo con te. La cosa migliore è incontrare le persone, poi soprattutto quando cresci capisci velocemente anche chi hai davanti, perché finché sei ragazzo a volte vieni trascinato, vieni confuso, vieni distratto da gente che non è alla tua portata, e quindi succede che magari sbagli strada e quindi si ritardano i tuoi percorsi. È normale, però la vita è fatta anche, è un percorso di errori, quindi è inevitabile. Però poi dopo, quando inizi a fare un po' di esperienza e a capire le cose, inizi a trovare la strada giusta. Poi adesso, come noi, vabbè, io ho già una certa età, quando spari fai centro, quindi sei un pochettino, cerchi di ottimizzare un po' il tutto, dai. L'unico mio errore nella vita è non avere mai fatto errori, così come l'unico mio difetto nella vita è non avere difetti, capisci a me? Certo, beh, è chiaro. E poi la cosa peggiore è la presunzione, la mancanza di umiltà, quello ti blocca. Ma chi è? Chi è lo stupido che non lo capisce? E soprattutto chi è che non fa tesoro degli errori degli altri, cercando invece di usare soltanto gli errori propri? È sbagliatissimo. E quindi se non capisci poi queste cose, è chiaro che non ti basterebbero neanche tre vite. Guarda, se aveva detto con tuo figlio questo discorso, riguardo alle decisioni di ieri, saprai, no? Che è stato importante, i discorsi, eccetera. Si deve sempre crescere nella vita, non si può rimanere in una certa posizione e godere in eterno di quello che si è fatto. Bisogna sempre costruire qualcosa, si può sempre crescere. Sono delle persone però che purtroppo sono rimasti alla terza al giro, quando erano piccoli forse non hanno acquagliato alcuni concetti e si erano trascinati fino a quale età, ai 60 anni, perché visto io, ma anche più avanti forse. Invece è insito l'animo umano migliorarsi, cambiare, provare, progettare un futuro anche se magari si devono avere tanti anni avanti. Un amico, anzi padre di un mio amico, praticamente in punto di morte, era già grande, aveva 86 anni, 2 giorni quasi prima di morire stava riprogettando l'orto in campagna. Ti dico solo questo. Poi dipende sempre, è una cosa soggettiva, dipende sempre da come ti funziona il cervello, perché poi una cosa importante secondo me è se perdi la cognizione del tempo, questo è importante, la cognizione del tempo, perché non ne abbiamo molto a disposizione, abbiamo giusto il tempo per realizzare i nostri sogni, i nostri progetti, per cercare di capire qualcosa e il perché di come siamo al mondo. Se ti manca quella capacità di utilizzare il tempo, che leva i primi anni di vita dove sei una specie di incosciente che non capisci e sei una foglia al vento, poi leva gli ultimi 20 quando sei mezzo rimbambito, poi alla fine te ne restano pochi, quindi non c'è tanto da temporeggiare. Scappa, la matematica non è un'opinione, poi sembra che non vedo di avere 18 anni, quando compi 18 anni ti ritrovi che ne hai praticamente 30, questi 12 anni sono passati in una frazione di secondo, poi iniziano magari i figli, la famiglia, eccetera. E ancora un po' stai già cercando di fare la salute per andare in pensione. La vita è un attimo, se pensi alla vita, all'universo, i nostri diciamo 100 anni, perché ci vogliamo bene, da vivere sono una frazione di secondo, proprio non quadrano un secondo, sì, millisecondi. Certo, e questo chi non lo capisce è peggio per lui, ma poi resi conto con quello che è successo in questo momento, che mai ci saremmo immaginati una cosa del genere, questa è stata una specie di fusibile, è stato un reset. La gente doveva capire che con quello che è successo che la vita va vissuta in ogni istante, in ogni momento, perché poi quando ti viene a mancare inizi a capire e a pentirti di non aver fatto quello che volevi fare, no? Sì, però sì, io te lo dico chiaro, lui si era impuntato con queste restrizioni, dice ma stai scherzando, è un precedente incredibile, vabbè lui è affezionato al diritto, abbiamo fatto giusto e trattiamo, mi hanno evocato, è affezionato, è appassionato, è del diritto ogni cosa, e infatti abbiamo fatto assieme, studiando storia del diritto romano, e da lì se guardi un paio di testi e se studi qualcosa magari inizi a capire che cosa è successo con queste istruzioni incredibili che abbiamo fatto. Il discorso è comunque sia, questo virus l'abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto in laboratorio, eccetera, c'è, fa male, dà dei problemi seri, io sono stato intubato perché ho avuto un problema serio su un polmone qualche anno fa, e essere intubati non è una cosa molto gradevole, mi senti veramente che non sei più tu, che il tuo corpo non sta funzionando. Questa è una cosa seria pesante. Sì, le restrizioni sono pesanti, eccetera, però la gente non è così intelligente come pensiamo, e su questo punto abbiamo avuto modo di litigare gli avvocati. Tu sei convinto che loro si sentano schiacciati così perché è un ledere le condizioni di diritto. La gente si sente schiacciata perché sta pensando, e quest'anno come farò ad andare al mare? Quasi quasi mi nascondo e vado a prendere la mia figlia, capito? Cioè, e poi non c'è neanche memoria, tra un annetto che ci ricorderemo questo periodo così e cosa, la gente non sarà tutto conscia di quello che è successo, sarà cercato di cancellare solo la testa e penserà, ah, meno male che non mi devo mettere la mascherina, uff, che paga sta mascherina, tenerla in borsa, poi si strappa, capito? Cioè, non siamo così intelligenti come pensiamo, non siamo immersi in un popolo pensante. Mi dispiace anche molto dirlo, e poi ti dirò di più, non è che sono più intelligente io degli altri, io penso di essere lo zero, cioè né in più né in meno, è spiacevole pensare che gli altri siano molto in negativo, stai capendo? Sono d'accordo con te, però diciamo che se lo consideriamo come un detto che tutti i mali non vengono per nuocere, è stato un momento di riflessione, poi è chiaro, chi lo vuol fare bene, chi non lo vuol fare peggio per lui, però è stato un momento di riflessione che ti ha fatto capire che sei vulnerabile, che non hai, non sei al centro dell'universo, ne fai parte. Quindi questo è importante perché ti ha dato un input per poter ragionare su questo. Se poi non lo fai, ma è normale che te ne devi sorbire le conseguenze. Sì, capo, aspetta un pochino, chi è così tronfio, così pieno di sé, che pensa di essere così grande, bloccato o addirittura ammazzato da una cosa talmente piccola che non ti vede, ma ti rendi conto? Incredibile, allucinante, guarda che se non ti fa riflettere questa cosa io non credo che, perché eravamo abituati poi, come io da piccolo ero abituato tramite la televisione a vedere, ci hanno abituato alle guerre, quindi pensavamo che la cosa peggiore fosse quella, poi invece è arrivato ben altro, che è ancora peggiore, perché se tu combatti contro una persona ce l'hai presente, la vedi, quindi la puoi studiare, puoi anche cercare di capire com'è il suo comportamento. Qua invece ha trovato spiazzato tutti, quindi è incredibile, ma anche le persone poi colte, gli addetti ai lavori. Sì, ma sono morti il virus degli intellettuali, sono morte persone che avevano una filosofia di vita ferrea, sana, speciale, persone molto intelligenti, e secondo me continuavano a capirci meglio questo virus, stato proprio a livello pratico. Non abbiamo ancora capito cosa fa e cosa non fa. C'è qualcuno che se ne esce intanto con un'idea, una scoperta, un team in Italia ha trovato il geniale, però ancora non abbiamo capito. E questo sì che fa pensare, cioè anche chi noi consideriamo, diciamo, una fan in altri di noi, questo virus è stata abbastanza. Non importa se sei americano, cinese, non importa se sei giallo, nero, bianco, capito? È molto democratico questo virus, e questo a chi ha il pensiero, chi è convinto di avere veramente in mano le leggi della propria vita e magari anche delle persone che ha intorno, addirittura di uno stato, o addirittura qualcuno che ha in testa che potrebbe anche essere il padrone del mondo, perché se il presidente americano dice due parole storte, la borsa crolla a Tokyo, crolla l'Italia e crolla in Germania, no? A chi ha questo potere l'ha fatto tremare forte, perché viene scherzando. Questa cosa ha colpito in maniera indiscriminata praticamente ovunque. Infatti, come qualcuno ha dichiarato, è stata praticamente una guerra mondiale, soltanto che in questo caso ci eravamo trovati tutti dalla stessa parte, per cui ha colpito tutti indistintamente, e questo ci ha fatto capire quanto siamo vulnerabili e che quanta strada ancora dobbiamo fare per poterci sentire sicuri. Poi, come dici tu, e la storia insegna, abbiamo la memoria della mosca, quindi magari già da tra qualche mese, tra qualche anno sarà tutto dimenticato e sarà di nuovo punto a capo, ecco. Guarda, io non volevo credere alla mia ex moglie, al tempo della mia moglie, quando mi ha telefonato io dentro un furgone, stavo per entrare in una villetta nella quale avrei dovuto lavorare da solo, perciò mi portavo, quando lavoro da solo mi porta per una violina. Me la metto in un punto strategico, un lume medio, e poi quando mi sposto comunque sia un po' di musica di arrivo alla cantina. Ero incastrato nel furgone in mezzo a delle matasse un po' corrugato, quello per fare gli intervenirci, per intenderci. A un certo punto mi chiami, dice, ascolta, dove sei, molla tutto, vai davanti a un televisore, davanti a un bar, vieni a casa, fai quello che vuoi, ti devi vedere il televisore, perché stanno crollando le torri gemelle. E io, ma smettila, non ci credo. Bene, da quel giorno io ho capito che potevo affrontarmi veramente di tutto, se questo virus mi ha sorpreso a metà, non proprio, chi se lo sarei mai aspettato che potesse arrivare una cosa del genere nel mondo, ma ancora prima, io appassionato di antenne, di tutto, volevo salire sulla torre di sinistra a vedere che tipo d'antenna c'era lì, capito? Perciò io dovevo andare a New York da bambino, che ho 8 anni, mi volevo organizzare per andare a New York, poter salire su quella torre e vedere quella benedetta antenna. Bene, hanno rotto il sogno di un bambino, Io la prima volta in poi ho pensato nel modo può accadere veramente di tutto, non mi devo meravigliare. Incredibile, no? Hai detto bene. Sono delle cose proprio delle situazioni che ti segnano e che ti fanno riflettere, che danno un tempo a una vita, e ti rendi conto che le cose cambiano senza che tu possa intervenire, possa farci niente. E infatti questo ci fa capire quanto siamo impotenti davanti a certe situazioni. Poi però purtroppo, soprattutto davanti a situazioni create dall'uomo o a volte dei fatti inevitabili, e quindi capisci che sei un nulla in mezzo a un mondo che non riesci proprio a prevedere e a controllare. Va bene, dai Fabio, allora ci sentiamo, ti devo lasciare perché vado in carica. E ci sentiamo e mi farai sapere magari quando hai disponibilità, dai, poi dopo ci mettiamo d'accordo. Gaffa, dai, ci sentiamo stasera e vediamo un attimino, e ti dico la verità, devo andare a fare la spesa. E siccome non ho il furgone qua a Sassari, al posto c'è un camper, mi sono abituato a usarlo per fare la spesa, nel senso che se avete detto 10 casse d'acqua non mi rovino il sedile della macchina, capito? Perciò avete già stasera di prendere il camper, andare da LG e fare carico d'acqua, carico di impasto di pomodoro, carico di olio, carico di latte, queste cose che di solito prendo in quantità, no? Per non riuscire a mettere le cassette. E poi potrei essere lì però, perché in realtà non è che abbiamo solo a fare stasera. Dunque magari ci sentiamo per telefono e ci mettiamo d'accordo. Perfetto, dai. Ciao, comunque sì, facciamo così. Non mi meraviglio, non mi stai dicendo niente. Io quando ero ragazzo mi c'era rotta la macchina e da casa di mia madre qua in campagna, che sono quasi 6 km, venivo con lo skateboard a motore, quindi non mi stai meravigliando. Comunque dai, ci sentiamo. Con lo skateboard a motore. Sì, proprio la persona la cosa mi guardavano strano, io sono 10 anni che uso il monopattino elettrico, quando passo ancora mi guardo in maniera strana, figurati. Che gente, va bene dai, buona carica, anch'io vado a passeggiare un pranzo e faccio mangiare la mia madre. Ci sentiamo più tardi, buona. E d'accordo, a presto, ciao Fabio. Ciao, ciao, anche a te.